Allora, abbiamo presentato questa proposta di legge con cittadinanza attiva sulla sicurezza scolastica perché ci siamo resi conto che la legislazione esistente, applicabile sulla sicurezza delle scuole, non ruota intorno al diritto degli studenti a essere sicuri a scuola. Ci sono diverse legislazioni applicabili sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e altre, ma nessuna mette al centro il diritto dei bambini, il diritto degli studenti ad essere in aule e in scuole sicure, confortevoli, ma anche senza barriere architettoniche e anche adeguate alla didattica. Allora abbiamo immaginato un diritto alla sicurezza scolastica che copra tutti gli aspetti, perché andare a scuola è un diritto ma anche un obbligo dai 16 anni e di conseguenza le scuole non possono che essere sicure, devono essere sicure, e le famiglie devono sentirli al sicuro i bambini quando li inviano a scuola e devono anche essere informate. E quindi la proposta tocca diversi punti che vanno dalle responsabilità degli enti locali, dello Stato, del preside, fino anche ai diritti delle famiglie di avere accesso alle informazioni principali. Mi sembra fondamentale ad esempio citare anche il tema dell'unificazione dei fondi, delle risorse economiche, perché questa è una proposta che ovviamente ha bisogno anche di un impegno economico e al momento, oltre ad essere frammentata la legislazione, è frammentato il finanziamento, esistono tanti fondi. E poi altro aspetto a cui teniamo molto il supporto agli enti locali. Spesso si tratta di comuni anche piccoli che si trovano a fare i conti con procedure complesse per accedere ai fondi. Ecco, questo ha bisogno, ha necessità di una semplificazione e appunto di un aiuto tecnico. Non deve essere complicatissimo per un comune accedere ai fondi per l'edilizia scolastica e c'è bisogno di aiuto. Piccoli comuni sicuramente non vanno lasciati soli e questo è un altro punto su cui insisteremo molto. Ecco, ora ti chiederei anche appunto proprio qualche dato, diciamo qualche stima rispetto a quelli che sono i numeri e a quella che è la condizione dell'edilizia scolastica in questo momento nel nostro paese, perché già dando un'occhiata diciamo agli articoli di cronaca dall'inizio dell'anno si registrano già semplicemente digitando sul motore di ricerca diciamo almeno una dozzina di crolli in questi mesi. Intanto è importante dire che su circa 40.000 edifici scolastici in Italia, attivi in Italia, più della metà, 22.000, sono stati costruiti prima del 1970, quindi si tratta di un patrimonio abbastanza vetusto, insomma in buona parte. E anche se guardiamo alla situazione delle certificazioni, circa il 53% ad esempio non ha la certificazione di agibilità e di abitabilità. Questi sono dati che chiaramente non ci lasciano tranquilli, anche perché l'Italia è un paese sismico e non sono pochi i ragazzi che vanno a scuola in zone con pericolosità sismica alta o medio alta, le cosiddette zona 1 e zona 2. Sono 4,5 milioni gli studenti tra i 6 e i 16 anni che si trovano in aree lungo la dossiera appenninica o in altre aree in cui appunto l'incidenza dei terremoti è alta, e la sensazione è che davvero ci sia bisogno di uno sforzo collettivo più forte per mettere in sicurezza i bambini, per sapere in quali condizioni si trovano le scuole e per collaborare a vari livelli istituzionali. Ed è per questo diciamo che noi abbiamo avanzato una proposta a tutto tondo, perché nelle scuole c'è il patrimonio più importante di un paese, ci sono i bambini, c'è il futuro. Quando dei bambini vengono a mancare, e purtroppo è accaduto in Italia, viene a mancare un pezzo del futuro della comunità. Quindi davanti a questo panorama abbiamo richieste parlamentari di tutti gli schieramenti uno sforzo collettivo, e appunto ci aspettiamo adesso che venga depositata e discussa una proposta di legge. E infatti un'ultima cosa che ti volevo chiedere molto velocemente, proprio come è stata recepita la vostra proposta all'interno del Parlamento? Sicuramente un dato molto significativo è che la proposta è stata presentata alla presenza e con la partecipazione di parlamentari di tutti gli schieramenti politici dell'arco parlamentare, che hanno dato sostegno alla proposta, ognuno ovviamente dal suo punto di vista, e a partire dal punto di vista delle comunità locali, perché poi quando si parla di sicurezza scolastica dobbiamo considerare che questo è un tema molto importante per gli amministratori locali e chi ha gestito la questione a livello locale la vede nella sua concretezza. Questo sicuramente aiuta la trasversalità, però non era scontata, quindi siamo molto, sicuramente molto contenti. Ha aperto i lavori il Presidente della Commissione Cultura, onorevole Gallo, avevamo poi diversi altri parlamentari, De Carlo, i Fratelli d'Italia, Fratoianni di Sinistra Italiana, Fusacchia, Europa, la Latini della Lega, Bella di Forza Italia e l'onorevole Braga del Partito Democratico, ed è stato un segnale molto importante, quindi siamo incoraggiati, ecco, da questo primo passo. Ovviamente adesso inizia un percorso lungo che ci deve vedere molto attenti, perché la proposta va depositata, andrà poi discussa, tocca diverse questioni complesse e quindi dobbiamo sostenerla ovviamente.